È un'idea che parte in modo casuale o destinico, se vogliamo, da lontano, perché per caso mi sono imbattuta in un libro di Katrin Burdekin, era in febbraio 2020, il libro era Svastika Night, La notte della svastica, una sorta di ucronia anticipatoria scritta da questa autrice femminista nel 1937, e così, incuriosita dalla fantascienza delle donne, ho iniziato ad approfondirla e poi, per vari motivi, anche per il fatto che a settembre mi sono trovata semplicemente in pensione in piena pandemia con le biblioteche chiuse, ho approfondito alcune letture e, grazie alle amiche di toponomastica femminile, ovvero Vitamine Vaganti, ho deciso di iniziare a pubblicare una serie sulle autrici di fantascienza su Vitamine Vaganti, che è una rivista online. Il progetto poi è divenuto molto più grande e impegnativo di quello che pensassi e è sfociato poi nella pubblicazione del volume Demos Digital, diciamo dopo oltre 3 anni di lavoro, quindi 2020-2023. Ecco, quindi è una sorta di compendio, se così possiamo chiamarlo, di autrici femminili che appunto hanno dato voce alla fantascienza. È una scelta di autrici, una scelta molto limitata, anche se le autrici sono 71, sono divenute 71 perché rispetto alla pubblicazione online il progetto si è notevolmente ingrandito. E diciamo che le autrici che si occupano, che hanno scritto di fantascienza, sì, è decisamente più corretto, che hanno scritto di fantascienza, ma che sono state censite da mio marito Roberto Del Piano, che è un grande appassionato del genere, che ha fatto un po' di lavoro di back office, sono quasi 600, per cui diciamo che 71 è un piccolo gruppo. D'altra parte, in volume consta di 632 pagine, per cui era davvero difficile andare oltre, almeno per me. Ovvio. E sì, sono autrici affrontate da un punto di vista sia biografico, sia dei loro testi che si collocano in un milieu storico, culturale, sociale ben preciso, diciamo in 2 secoli di fantastiche narrazioni, perché si parte da Mary Shelley, quindi pubblicazione di Frankenstein 1818, per arrivare alle ultime autrici italiane contemporanee che hanno iniziato a pubblicare anche recentemente, diciamo negli anni 10 o 20 di questo nuovo millennio. Ecco, visto che si è occupato di un grande periodo di tempo, ha notato, come dire, dei miglioramenti, dei cambiamenti perlomeno, nell'approccio appunto della letteratura femminile, no? Alla fantascienza. Diciamo che proprio per mio gusto personale, ma anche mia convinzione ideologica, io ho affrontato non solo, ma con maggior passione, autrici femministe. Ma miglioramento non userei questa parola. Diciamo che ovviamente c'è stata un'evoluzione, perché la fantascienza in realtà non è soltanto una proiezione verso il futuro, ma è solidamente legata al presente. Come ha scritto Primo Levi, che è stato un grande autore di fantascienza, oltre che un autore di Se questo è un uomo e una tregua, la fantascienza ci consente di individuare un vizio di forma, una smagliatura nella società noi contemporanea e di immaginare altri percorsi possibili per il futuro. Per cui certamente Mary Shelley scrive nel primo 800, penso ad altre autrici, per esempio Catherine Muir, che è un'autrice che possiamo collocare negli anni 30, 40, o Alice Sheldon, anni 70, 80. È evidente che ciascuna di queste autrici, per arrivare a quelle contemporanee, contemporanee, Anna Liniuitz o Francesca Cavallero, che scrivono i loro testi nel secondo decennio di questo secolo, è evidente che cambiano i mondi che ci circondano, cambiano le problematiche e cambiano sguardo nei confronti della società del futuro. Una costante, direi, è il desiderio delle donne di cambiare uno stato delle cose che da N millenni le vede svantaggiate e sottoposte al patriarcato, per cui la fantascienza è certamente per le fantascientiste uno spazio di libertà. Certo, assolutamente, infatti penso che sia proprio questa, no? Magari la forza della fantascienza, no? Il poter fantasticare e magari migliorare una condizione che si sta vivendo, appunto. Sì, o una condizione di cui si vedono i rischi di deterioramento. Esatto. Penso per esempio alla questione ambientale, che è stata anticipata sia da autrici che da autori di fantascienza, ma a partire dagli anni 60 del secolo scorso, e è soltanto da pochi anni che alcune avanguardie illuminate ne parlano, agiscono e sono sensibilizzate su questo tema. Bene, grazie mille Laura per averci fatto una panoramica del tuo saggio. Ti chiedo come ultima battuta dove si può trovare, perché c'è la versione diciamo online. No. Online ci sono gli articoli di Vitamine Vaganti, che sono la metà, diciamo, del saggio, sia come numero delle autrici, aggiornamento, presenza di approfondimenti e note. Il saggio è stato stampato da Demos Digital, quindi si trova in cartaceo, ma anche in ebook. Okay. Si trova presso un editore, si trova presso le grandi librerie online e si trova anche in libreria, perché nelle librerie online presso un editore si può acquistare sia in cartaceo sia scaricare nei vari formati Kindle e Pub. Nelle librerie, così come nelle librerie fisiche di qualsiasi città o centro, si può ordinare la versione cartacea, perché Demos Digital è una casa editrice regolarmente distribuita su tutto il territorio nazionale.